che resta, restano l'osso leggenti che cela un'urna breve, un freddo sasso degli anni tuoi già spenti. Dimmi che ti rimane.